Io verde. Io nera. Nera terra, terra scura. Terra di mani, di piedi. Ocra di zolle, gialla di fango. Terra di siena. Io azzurra, di acqua, di fiume. Io fluviale, pluviale. Perché sotto la terra c'è il fiume, sopra il cielo, blu. Indaco. Turchese. E il verde sono le foglie. Sono le colline. Verde tenero a primavera. Bosco d'estate. Verde grigio d'inverno, quasi bianco. Ed autunno mischiato al rosso, al giallo, al marrone. Verde raggrumato all'orizzonte, a virgole, a riccioli. Che poi sono alberi e colline. E sui sentieri sali. Sali sempre. Sali per i viottoli, sali per le strade, sali per la strada bianca, sterrata, bianca di polvere sui piedi nudi, sulle scarpe grosse che non mi stanno, che non devo sporcare perché io le scarpe ce le ho. Ce le ho di un fratello grande, di un cugino, chissà. Sono scarponi con le stringhe e sopra la gamba è sottile, sottile, sottile. E le ginocchia sono sottili, sottili, sottili. E le mani, le braccia senza carne, sottili, sottili. Ma gli occhi sono grandi, sopra gli zigomi grandi, e guardano là, dove ancora non sono stata, ma un giorno sarò. Io salgo, salgo tra i sassi e i rovi, e la terra battuta verde di erba, salgo tra i muri di roccia, i castagni, le felci, le viole selvatiche, tra le stalle e tra le bestie, salgo. Passo la fontana, passo il ponte dove l'acqua cade, con le mie piccole braccia, sulla mia piccola testa, anch'io porto i secchi con l'acqua, il pastone per gli animali da mangiare, il maiale, che poi si ingrassa lui. Io no. Io con le dita piccole faccio piccoli pezzi di pane e sulle spianate piccoli pezzi di polenta con sopra qualche goccia di sugo scuro che cola dalla carne scura. La carne vera no. La carne è per l'uomo, la carne è per l'uomo che va a faticare. Io siedo davanti ai portoni e guardo verso dove devo andare, verso dove un giorno andrò, oltre le colline. Ho la pezza, ho il grembiale, ho le scarpe, ho il busto nero. Non mi piace, il busto mi sta stretto, ma lo portiamo tutte qui. Angelina, Natalina, Margherita, Pompiglia. Tutte, anche quelle che le scarpe non ce le hanno. Pasqua Rosé, basta Rosé, sta ferma mo, sta ferma che te fanno il ritratto, te fanno la foto. Devi sta ferma come una che conta, fino a 7, fino a 6. Io ferma ci sto, ci so stare, ma non so contare, non so nemmeno leggere, non so nemmeno scrivere. La scuola è il fiume e per bambole abbiamo i sassi, però so pensare. E mentre sto ferma, i pensieri che penso volano via. Pensieri di bianco, di grigio, d'arancio. Pensieri di acqua, di pozzi, di pioggia, di Pasqua, di rose. Di Pasqua delle rose. Pensieri di Pasqua rosa. Passa una mosca, passa un carro sotto, mi sembra che sia una carrozza, c'è il rumore della strada, della piazza vicino, una piazza fiorita di rosso e di blu. Lì le ragazze si fermano ad aspettare che le chiamino gli artisti per fare le modelle. Ho 16 anni e il mio corpo è leggero come una libellula, un iridescente. una di quelle che vedi al fiume, che vedi giù, all'Oriella. Io sono iridescente, sono una piccola trina, sono una fata nuda. Nuda, nuda, sì, perché? Che c'è? Stiamo a fare l'arte noi, mica l'amore rubato. Noi siamo artisti e il nudo è arte. Margherita, nuda, una volta, ci ha posato sulla neve. Sulla neve! Noi siamo forti, noi. Sai come si dice, no? Che le modelle di Anticoli sono le più belle, perché Anticoli sta all'ombra, sta all'appacino. E io sono bella? Sì, sono bella. Allungo le braccia, spingo avanti un fianco, te lo faccio vedere, lo mostro ai tuoi occhi, alla tua mano che plasma. Dove mi porti? Così devo stare, sospesa, guardando avanti. E sfido te, e sfido il mondo con la mia nudità nuova. Mo adesso devo andare, mo. E mi dispiace, ma devo andare, perché i campi hanno bisogno di braccia, di tutte le braccia, di tutte le mani, di quelle mie, di Natalina, Angelina, Margherita, Pompiglia, Pasqua Rosè, Pasqua Rosè, tira, Pasqua Rosè, spingi, Pasqua Rosè, prendi, tagli, arraffa, Pasqua Rosè, corri, scappa, che l'acqua è fresca. Non è fresca, è fredda. Ma come facciamo se no a lavarci, io e Natalina? Il cielo è alto e i campi sono inondati di luce, luce bionda, luce tenera la sera. Di questa luce io ne parlo a quelli che stanno giù in via Margutta, e gli dico anche del paese e delle case, che hanno due piani. Sopra ci stanno i vecchi, i nonni, ma quando uno dei due muore, con le assi di quel letto ci si fa la bara, il pagliericcio lo si brucia insieme a tutte le cose sue, e la tastiera si lascia per strada. Così di uno non rimane più niente. Solo l'altro rimane e finisce al piano di sotto, ad accudire il fuoco che non sa da spegnere mai, oppure i piccoli che ancora non vanno ai campi. E al piano di sopra, perché la vita, ci va la coppia nuova. Oppure, perché anche questa è la vita, la si affitta ai pittori o si affittano le stalle. Con quei soldi ci si fa l'inverno, loro, i pittori, ci fanno gli studi per l'estate. Ci sono anche le pensioni, perché qua di artisti ce ne abbiamo già tanti. Una l'ha fatta il farmacista, e infatti la sera in farmacia si fermano tutti a parlare fino a tardi. L'altra l'ha fatta l'avvocato Carboni. E arrivano, arrivano gli amici di via Margutta, arriva Carena, ma ce ne sono tanti: Gaudenzi, Selva, Ferrazzi, Bompiani, e poi arrivi tu. Arrivo io su un sidecar, io a fiutare i luoghi dove si dipinge. Sono Corrandone, il mio maestro, il maestro delle mura, perché il suo studio si trova nella torre Omnium Perfectissima delle mura aureliane. Saliamo la strada a curve e si alza una polvere bianca e densa che non ci fa vedere nulla. Solo quando arriviamo in cima, dove la strada si allarga tra le bestie e la gente, sentiamo gridare: scopettone! No, un'automobile! Ma no, un scopettone con una sedia, che uno se siede dentro! Il scopettone moderno con tutte le comodità! Il scopettone? Ma che cos'è? Una scopa grossa? Poi ho capito, era la motocicletta. Tutta quell'agitazione era per il nostro sidecar. La gente era semplice, non potevi camminare senza incontrare maiali di ogni misura e di ogni età. La vita è molto primitiva e molto sporca. In ogni strada c'è puzzo di sterco, o di capra, o di pecora, o di maiale, o di vacca, o di somaro. Ci sono molte più stalle che abitazioni. Per fortuna che l'aria disinfetta tutto, altrimenti morirebbero per il colera, perché dormono uomini e bestie tutti insieme. L'acqua è meravigliosa, ce n'è di tutte le qualità e molto benefica. Io sono vestito di chiaro e sulla giacca, sul berretto, gli occhialoni, sui pantaloni si posa la polvere bianca e sulle scarpe il fango. Vengo da Roma sul sidecar. Scappo da Roma, dove, detto, dovrei mandare avanti l'impresa di famiglia. Ma se c'è qualcosa che voglio avere fra le mani, non è un registro dei conti, ma un pennello. Io ho fatto studi da ragioniere. Sono stato anche 2 anni in Germania, a Francoforte, dove volevano facessi pratica da amministratore. Il primo giorno che mi sono presentato in azienda mi hanno messo in mano uno spolverino nero da contabile. Io l'ho preso, l'ho guardato, ho ringraziato, l'ho appoggiato su un tavolo e sono uscito. Non mi hanno più rivisto. E così i 2 anni che mi restavano in Germania io li ho passati nei musei a studiare arte. Non è apprezzata la mia vocazione dai miei, i Bertoletti, che dal Lago Maggiore con il borsalino a Roma hanno fatto i soldi, con il borsalino e con gli ombrelli, e infatti parlano il gergo degli ombrellai, il tarush. Magero, bello. In fondo al piano, brutto. La Bernarda, la cameriera. Schiare, pagare. Il bef, il sedere. Slusciare, fare con la piccola. Buschire, fare con la grossa. Noi ad Anticoli la facciamo nei pitali e poi la buttiamo giù dalla finestra. Eh già. E non ci sono, come dire, le comodità. No. No. Sono giovane. Ho studiato, studio, studierò tutta la vita. Nature morte. Qualche paesaggio, poco. Nudi, soprattutto. Ah. Nudi femminili. Sì. Io ti ho ritratta dal primo sguardo. Ritratta già nella mia mente. I miei occhi, come persecuzioni delle mani, hanno seguito il tuo perimetro e ti hanno toccata. Venere di Dresda. Venere anticolana. Fragile come rosa. E ancor più fragile la strana meraviglia che veli nei tuoi occhi. O mio azzurro venata. Pasqua rosa. Mia Cleopatra. Io rubo pezzi di te, sì. A volte la schiena, le mani. Studi. Nudi. Nudini. Allungo le braccia, spingo avanti un fianco, te lo faccio vedere, lo mostro ai tuoi occhi. Dove mi porti? Io ti dipingo sempre, per sempre. Tra le lenzuola, vestita, distesa sul letto, in piedi, seduta, in giardino, sulla sedia, sulla sdraio, sull'amaca, con il cappello, con il paltò, con il gatto, con i guanti, con i fiori, tra le agavi. Tu no. Una volta. Sì, una volta sola. Preferivo i ventagli. Ah, ecco, ti dipingo mentre dipingi. Mentre leggi. Ah, sì, leggo. Tu m'hai imparato. Mi impari? Per fare bene l'indirizzo sulla busta, tira prima una riga con il lapis, che poi cancellerai quando l'inchiostro è asciutto. Mi insegni. Allungo le braccia, spingo avanti un fianco, te lo faccio vedere. Dove mi porti, eh? Dove mi porti? Ti porto in un parco. Pensato e costruito così, come si scrive un libro, o come si dipinge un quadro, o come da una pietra si tira fuori una scultura. Disseminato di studi, un pensionato artistico. Passato il piccolo portone c'è il viale grande. Sì, c'era il tunnel delle rose. E poi c'era un prato dove potevi trovare un ranuncolo accanto a un'orchidea selvatica. Stroll cura personalmente ogni spazio, ogni pianta, ogni fiore. Nulla è casuale nella villa di Stroll. Stroll Fern. Fern l'ha aggiunto dopo, è tedesco. Significa lontano. Stroll lontano. Lontano da dove? Dal posto dove è nato, come me. Sì. Molto più di te. No, più di me è impossibile. Ma scusa, lui viene dall'Alsazia, tu vieni da Anticoli Corrado. Appunto. C'è lo scroscio dell'acqua che annaffia il prato delle serre. E poi ci sono le voci di insetti invisibili che riempono il silenzio del parco e lo rendono vivo e palpitante. Dagli studi invece arrivano altri rumori. Lingue diverse. Ah sì, noi siamo i vicini di Oscar Brazda. È sposato con la cugina del re di Svezia. È un bel ragazzo. Mi ha fatto il ritratto. Dialetti diversi. C'è il siciliano di Trombadori, il lombardo fiorentino di Socrate e il tarusce di Nino e Pasquarosa, una lingua solo nostra. Ogni artista ha un odore diverso all'ora di pranzo, il suo abbigliamento è diverso, il suo giardino è diverso. Sì, gli studi invece erano tutti uguali. Sì, e uguali al loro interno erano l'odore della creta umida e della trementina, immancabile con i colori ad olio. E per la tempera? Per la tempera teglie d'alluminio, utilissime alla bisogna. Io preferisco l'olio, perché colore in materia. È colore che si tocca, materia che si stende. Io coi colori pastrocchio. Dipingi? No, io coi colori pastrocchio. Ci metto il pennello come se ci mettessi gli occhi, come se ci mettessi le mani dentro. È la mia nostalgia, o la mia fame, o la mia intelligenza. È il fiume, è i fiori, è Natalina, Angelina, è tutto quello che sta dentro di me, arcano. Io coi colori pastrocchio non conto nella testa, non conta affatto, non c'è niente da contare. Sono bella? Sì, sono bella, sono sempre bella. Sono una bambina che sale tra le felci, castagne e le viole selvatiche e ho le impronte di quelle viole nella mia testa, nella mia anima. Dove mi porto? Fai bene a dipingere pupa e Argentina all'aria libera. Fai bene. Un piccolo nudo, o un nudo piccolo, semplice azzurro, e tutto intorno strane piante come in un Eden primitivo. Al centro il bianco della carne, e al centro di quel centro un piccolo triangolo fulvo, e più su due bottoni dello stesso colore. Chi c'è al centro di quel centro? Ci sono io. E poi chissà perché, come prima cosa, proprio un nudo. E beh, l'abitudine. Io sono la modella del pittore Nino Bertoletti. La madre dei suoi figli è una pittrice? Figli? Un figlio? Ma io non sono pronto. Non siamo preparati, non possiamo. Lo studio è piccolo, è un pensionato. I miei, mia madre... Mio padre non vuole nemmeno sapere che cosa faccio. Dice sempre, dice ancora che con queste cose non si mangia. E queste cose sono la pittura e te. Perché tu sei quello che io dipingo sempre, anche quando dipingo altro. Stai ferma, stai seduta, stai nascosta, non respirare, non contare. Ma io devo contare. Le settimane, i mesi, le lune. 2, 3, 4. Dove mi porti? Mi porti in una carrozza scura. E questa carrozza va verso un posto altrettanto scuro. Un posto che non ha nome. Dove io non avrò più nome. Né coraggio, né occhi per guardarti. E un attimo. Le ruote ruotano sulla strada. E un attimo. Che la carrozza rallenta per un attimo. E in quell'attimo io apro lo sportello. In un attimo mi butto giù. In un attimo corro, corro, corro per strada. Ti lascio alle spalle. Avverto il tuo fiato corto. Avverto il tuo fiato sospeso. Corro, corro verso dove non so. Ma lo faccio e decido. E non so nemmeno che decido. Ma sono io, sono Pasquarosa. E sfido te e sfido tutti. Tuo padre, tua madre. E sfido il mondo con la mia nudità nuova. E in un attimo io scendo, corro. Corro dietro la tua esile ombra. E l'attimo dopo ti corro accanto. Corri e ci abbracciamo. T'abbraccio, ti stringo, ti fermo. Dove vai tu, vado anch'io. E in un attimo decido. E io lo so che decido. E decido che tu ed io staremo insieme sempre. Per sempre. Olga, Olga Lodi Ossani, voi la conoscete? Io la conosco. È una donna che scrive e parla di molte cose che riguardano le donne. Cose incredibili, cose impossibili, come poter votare, poter studiare, poter divorziare. Il diritto di avere gli stessi diritti. Io dipingo... È un mestiere anche questo, sai, nonostante quello che dice Francesco, il padre di Nino. No, si mangia. Con quella roba là non si mangia. E poi mai, mai con quella donna mai. Che cos'è una modella, eh? È una che si spoglia, ecco cos'è. È una... Francesco, basta là. Moderazione. Ma sì, vabbè, lasciamo stare, né? Ah, e quando l'abbiamo mandato in Germania? Cosa c'entra la Germania adesso? No, solo che se ci avessimo mandato al posto suo il Cesare era meglio, eh? Il Cesare Leoncic? Lei è un bambino. Stai zitta te, che li hai sempre aiutati. Ci portavo ogni tanto da mangiare. Gli hai fatto male, hai fatto. Avrebbe potuto sposare una del nostro mondo, la figlia di un manifatturiere, di un industriale, e invece sposa una contadina che si è messa in testa di dipingere. Una selvaggia, una che mangia pomodori crudi. Ecco, che fanno male. Che una cosa mai vista. E il caffè lo si beve lungo. E lo si prepara una volta per settimana e poi lo si riscalda. Ma a me i pomodori crudi piacciono. E poi mi ricordano i campi e non la fame. E poi sono rossi, di un rosso che si potrebbe ritrarre in una natura morta. Oppure come sfondo, come una tovaglia sul tavolino in casa di Olga, dove rimango per un po', dove ascolto tutto quello che si dice, e di cose se ne dicono tante, eh? Le dice la Duse, le dice la Delenda, le dice Pirandello, Bontempelli, Vamba, Cecchi, le dice persino D'Annunzio. E poi c'è un attore alto e magro che si chiama Tofano, con una bella moglie, Rosetta. Sono cose da pensare, quelle che dicono. E io penso e dipingo e ascolto e aspetto. E poi la storia da noi ad Anticoli, lo sai, no? Come va a finire? Angelina Colasatti sposa Torresini. Natalina sposa Selva. Margherita, quella della neve, e infatti va a finire in Svizzera, sposa Paul Oswald. Candida sposa Gaudenzi. Pompilia d'Aprile sposa Fausto Pirandello. E Pasquarosa Marcelli sposa Nino Bertoletti. Ecco, matrimonio civile. Tenente Nino Bertoletti, che infatti parte per la guerra. Volontario. E io aspetto un figlio. Ma non ti lascio sola. I miei si occuperanno di te e di... È un maschio? Giorgio. Giorgio. Si occuperanno di te e di Giorgio. Anche se dipingo? Anche se mangio pomodori crudi? Ti scrivo. Per fare bene l'indirizzo sulle buste, tira prima una riga con il lapis, che poi cancellerai quando l'inchiostro è asciutto. Tu scrivi... Fai bene a dipingere pupa e argentina all'aria libera. Però bada che io non voglio che tu faccia vedere a nessuno quello che fai, neanche a Socrate. Voglio vedere io la prossima volta che vengo. Guarda di non stancarti presto e di insistere molto. Rispondi. Desidererei molto anch'io che tu avessi una maestra per imparare a scrivere meglio. Ma ora non so proprio come fare. È una delle cose più importanti a cui dovremo pensare non appena saremo tornati insieme. Ecco, è che io... scrivo male. Parlo proprio della calligrafia. È brutta. La firma non voglio nemmeno metterla sui quadri. Infatti cerco sempre di fare firmare qualcun altro. Nino, mio nipote, mia nuora. Sono rimasto impressionato da un film. Molto impressionato. La Grande Guerra. Ecco, in quel film c'è un personaggio, il tenente Gallina, che fa il collegamento fra gli avamposti e le retrovie. Con gli occhialini tondi non vede. Tirano! Da dove tirano? Ecco, quei tenenti lì erano degli eroi. Oddio, a me la guerra non piaceva, eh? Io sono andato volontario, sì, per senso del dovere, la patria. Ero in aviazione, ricognitore sui biplani. Segnavo le posizioni, facevo le carte. Diciamo che facevo paesaggi. Ero con Baracca. Ah, e sulla morte di Baracca avrei qualcosa da dire. Io sono in volo con lui, in ricognizione. Quando atterriamo, Baracca sta male, ha 40 di febbre. Viene subito richiamato per partire e andare a bombardare. Baracca risponde che ha la febbre alta. Oh, lei non se la sente, dice un generale. Baracca non risponde. Tira su la cerniera del malus e riparte. Ma vola basso, perché sta male. Così basso che un cecchino lo prende e muore. Ecco, il valore del bombardiere Baracca, la nobiltà del gesto, il senso di responsabilità, l'orgoglio. Poi tutti quanti dicono di Boccioni. Boccioni, certo, anche lui poveretto. Ma Boccioni è morto cadendo da cavallo mentre tornava a casa. Sempre in polemica coi futuristi. Da chi? Quelli del caffè Groppo? Tipi poco raccomandabili. Io preferisco andare al caffè Aragno. Lì ci sono le granitiche legioni dell'arte e dell'intellettualismo. Entrare lì dentro è un fatto temerario. È come assaltare una nave nemica con il coltello fra i denti. E tu? Io sono secessionista. Un po' fauve per via del colore. Ah, un'amica di Matisse. Di chi? No, queste cose io non le ho mai dette, queste cose le hanno sempre dette gli altri. A me le mode, le correnti mi sono sempre state strette, un po' come il busto che portavo quando ero bambina. Il piccolo fatto, interamente nuovo, sono le nature morte di Pasquarosa Marcelli. C'è molta felicità in questa pittura. Emilio Cecchi, grazie, molte grazie davvero. Si è messo in mano il pennello a una modella ignara di ogni elemento di disegno e di pittura. E si grida la rivelazione davanti alle nature morte di questa ottima Pasqua Rosa Marcelli, destinata a tornare subito dal suo cavalletto inaspettatamente e forse inconsapevolmente raggiunto alla sua sedia di modella. Guido Marangoni può andare con il suo grosso beffe in fondo al piano. La piccola ciociara di 19 anni, dal nome deliziosamente primaverile ed una fresca serenità agreste, e rompeva in una sua spontanea arte schietta ed efficace. Ester Danesi Traversari, mi sento tutta fiorita. Nell'opera di Pasquarosa Marcelli l'oggetto si trasforma e acquista un'essenza nuova, e questa è vera pittura. Diego De Angelis, persona squisita. E io alla mostra vendo i miei due quadri. I miei garofani se li prende la regina Margherita. Ecco forse anche perché la faccenda dei pomodori crudi è finita in secondo piano. Vabbè, se ti piacciono così. Garofani sono anche quelli che dipingo per Pirandello. E glieli regalo quando vince il Nobel. A Luigi, non a Fausto. Il marito di Pompilia. E facciamo anche una festa bellissima in via Bosio. E gli preparo un pranzo coi fiocchi, un rollè di tacchino farcito. Un capolavoro, un'opera d'arte. Grazie, molte grazie davvero. Ed era una festa bellissima quella di via Bosio. Sì, c'erano anche gli altri vicini, Nicolai Semenov e sua moglie. Sì, un'altissima, magra, sempre vestita di bianco. Quello che ricordo di lei sono due grosse orecchie con due enormi pendagli d'oro. Sì, li abbiamo poi incontrati di nuovo a Positano, dove avevano comprato un vecchio mulino. Hanno fatto una bella vita lì, in piena libertà. Si vedevano spesso con Diaghilev e con il ballerino Massin. Con i russi. Quei garofani sono sempre lì, in via Bosio, insieme a un grande lampadario veneziano e a un enorme tappeto. Ci si dimentica, anzi, di quel quadro in via Bosio, finché qualcuno non lo stacca dalla parete e legge in basso a sinistra Pasqua Rosa. Per una volta la firma l'avevi fatta proprio tu. Pirandello mi incontra sempre sul pianerottolo. Pasqua Rosa, che beccia che è. Mio marito non mi guarda neanche più. Molto bella e molto brava. Ho sentito che ha cominciato a leggere Shakespeare, è vero? Eh sì. E le piace? Moltissimo. Ma che brava, Pasqua Rosa, brava, Pasqua Rosa che legge Shakespeare. Si merita un abbraccio. È così, però adesso devo andare. Ah, che peccato. Non è vero? Luigi era, come dire, un toccaccione, ecco. Però non è mai successo niente, no, anzi. Con Marta Abba facciamo delle belle passeggiate al mare, delle bellissime feste. Un manipolo di amici al mare d'estate, a Castiglioncello. Carissimi, il premio Viareggio si è concluso ieri sera con una serata noiosissima, però sono molto contenta della mia medaglia d'oro e sono tornata a Castiglioncello alle 6 del mattino, così ieri ho dormito tutto il giorno. Il paese è molto bello. Io sto con Bertoletti, Pirandello, anche loro lavorano fino a tardi, così ci vediamo la sera verso le 8. Ah, non ho visto nessun avereggio della Marmaglia, Forte Marmina. C'erano Adriana Pinkerle, molto ben messa, e i coniugi Gentile, sempre a ballare fra di loro. Baci, baci, baci, baci, baci, baci, vostra Paola Masino. Mi piace il mare, quella profonda striscia di denso blu che stendo col pennello. Mi piace il cinema, mi piace il teatro, mi piace uscire la sera, mi piace mangiare, e mi piacciono le meringhe, i marron glacé, le violette gandite, i vol-au-vent, l'anguilla natale. Questo l'ha imparato da mia madre. Sì, e il capone. E il pan giallo di Roma. Mi piace fare da mangiare, mi piace curiosare, mi piace sapere che cosa fa la gente. Mi piacciono i libri. Libri? Libri nuovi, libri vecchi, libri antichi, rilegati in pelle, in marocchino, fatti rilegare di nuovo per gusto, per capriccio, per eleganza, per mania. Libri che si alzano sulle pareti come muraglie del nostro sapere. Libri che si arrampicano in alto nelle stanze l'uno sull'altro a celebrare la nostra conoscenza. Li annusiamo, li poniamo, cataloghiamo. I miei libri d'arte, i libri dei miei maestri, Giorgione, Goya, Renoir, Cézanne. Come Manet è il padre di tutta la pitturaccia dal 1880 al 1910, così Cézanne è il padre di la pittura seria dal Novecento ad oggi. E fino a chissà quando. Cézanne e Cézanne. Libri scritti dagli amici, libri con dedica agli amici Nino e Pasquarosa, a Pasquarosa con tanto affetto, a Pasquarosa che Massimo ama, a Paola che Nino adora, a Pasquarosa Marcelli Bertoletti e alla sua severa ironia questo libro che forse la merita. Corrado Alvaro. Leggo sempre Shakespeare. Che brava Pasquarosa, brava! E Leopardi muove la gregge oltre pel campo e vede greggi, fontane ed erbe. Pensieri di pecore, pensieri di acqua, pensieri di pozze, pensieri di Pasqua. Vado ad Anticoli per un po'. Non andare a dipingere. No. Dipingere lì non ti fa bene. Lo so. Ti comprime troppo, non ti libera. Raccomandazioni inutili. È che mi è nato un altro figlio. Un figlio debole, un figlio fragile, povero figlio. Piange. Non vuole il latte. Non vuole il mio latte, credo. Perché il mio latte non è buono. Perché io non sono buona. Perché noi non siamo buoni. La nostra vita non è una vita giusta. Non è una vita santa. Da un'unione che non è benedetta da Dio nasce un figlio malato, un figlio che rifiuta il seno della madre. Mi porto questo fagotto dietro, tra vergogna e paura. Lo porto via, questo pupo piccolo che mi punge nell'anima. Lo porto nell'Arcadia, perché lì ci sono altre donne, altri seni a cui attaccarlo, donne migliori di me, perché protette dalla loro ignoranza, e l'ignoranza proteggerà lui come una volta ha protetto me. Lo lascio e scappo. Lascio cadere questo fagotto nel grembo di un'altra e scappo. E io. Pasquarosa è devota di Padre Pio. Lei e la sua amica Leonetta Pieraccini dicono di aver sentito profumo di viole. Dicono Laura. Ma. Fatto sta che ci sposiamo il 9 giugno nella chiesa di Sant'Agnese fuori le mura. Testimone di nozze la scuola romana e l'Italia letteraria, Cipriano Efisio Oppo e Alberto Francini. Sono moglie, madre, modella del marito e pittrice. Sì. Lo eri anche prima, senza che dovessimo metterci di mezzo un prete. Sempre in polemica con la Chiesa. No, con la Chiesa no, ma con Pio XII sì. E sì, per via della spina di Borgo. Sì, per via della spina di Borgo, sì. Per via della spina di Borgo, una spina nel cuore. Era un progetto perfetto, la cosa migliore che abbia mai fatto. Me la volevano persino comprare. Piacentini, 1 milione mi voleva dare per venderglielo. C'ha pure mezzo di mezzo, quel povero Cristo di Papini. Con una moglie e 2 figli dovevi sfidarlo a duello? Beh, tanto comunque poi non si è fatto, no? Purtroppo. E Pio XI a chi poi va a dare l'incarico? Eh? A chi ha dato l'incarico? Eh? A Piacentini. E quello che ha fatto Piacentini è sotto gli occhi di tutti. Bella roba. Il mio progetto invece non è mai stato pubblicato. Al Museo delle Arti e delle Tradizioni Popolari all'Eur dicono che gliel'ho regalato nel 1911. Ma se l'ho fatto nel 1929, anzi, se uscite da qui e vi capita di incontrare la direttrice del museo, la dottoressa, e glielo fate presente che quel progetto me l'hanno rubato, mi fate un favore, un grande favore. Ah, ditele che la sfido a duello. Oddio, se ti sembra il caso. Idealmente, si intende. Ne hai parlato con Bottai? Da chi? Il ministro Bottai? Il ministro Bottai inaugura la Galleria Comunale di Arte Moderna di Anticoli Corrado. Ah, ci sono anche i nostri quadri. Sì, 2, che poi hanno rubato. Alla prima mostra del sindacato nazionale fascista io ho una stanza tutta per me. È abbastanza grande. Sì, ma l'arte italiana è piccola, si muove in spazi ristretti. No, è che tanti sono poveri. Ponzi, ad esempio. Ah, Ponzi. Ponzi vende una statua che ora sta allo Stadio dei Marmi e guadagna un sacco di soldi. Da questi soldi prende 100 lire e le dà al figlio Ercolano, che tra l'altro li aveva pure fatto da modello. Ercolano, tutto felice, corre a fare la spesa. Mentre sta tornando a casa, viene fermato dai carabinieri. Perché era stata tale la sorpresa per quelle 100 lire che sia i carabinieri sia il pizzicarolo, che era subito corso ad avvertirli, pensano che il ragazzo ha rubato. Guttuso si tira su grazie all'aiuto di Mimmis, la moglie. Sì, perché stava su una panchina nel parco di Milano a morire di fame. Gianni muore di tubercolosi. Fausto Pirandello vive meglio perché c'è il padre. No, perché c'è Pompiglia, la moglie, che non sarà una pittrice. Figuriamoci, quando ci ha provato lui le ha subito strappato i pennelli di mano. Ma è una gran donna, è una perfetta amministratrice. Me lo ricordo perfettamente, una volta, saranno stati gli anni 50, prendere sotto braccio Palma Bucarelli sulle scale della Galleria Nazionale e trascinarla letteralmente a vedere i lavori del marito. Si chiudeva falsa chiave nel suo studio fino a mezzogiorno, poi da dopo pranzo fino a sera, poi requisiva tutto quello che aveva fatto e lo instradava verso i mercanti d'arte. Per noi è diverso, noi abbiamo i soldi di famiglia. Vabbè, vendiamo i nostri quadri. Sì, beh, non soltanto al ministro Bottai, eh. Pasquarosa se ne andava per il mondo, mostre collettive, itineranti, in Spagna, in Grecia, in Germania. Una cosa che era stata organizzata dalla Sarfatti. Poi in America e, naturalmente, a Londra. Pasquarosa vende sempre. 27 opere su 39. Alla mia personale, alla Arlington Gallery. Bloomsbury. Mi hanno detto che blooms significa che fiorisce. E nella nebbia fioriscono i fiori di Vanessa Bell. Pensieri di pioggia, pensieri di grigio, di acqua, di pozze, pensieri di pecore. Non è mica stato facile spiegarlo ai miei, perché loro Londra non sapevano manco industria. Io preferisco vendere i quadri degli altri e tenermi i miei. Sono un buon collezionista. Non bisogna mai preoccuparsi per i problemi di soldi. I problemi di soldi si risolvono sempre. Cambiamo casa. Lo spazio non basta mai. C'era una stanza grande dove si aprivano le porte degli appartamenti. Per terra, cotto rosso a mattonelle piccole. Poi c'era lo studio di Nino con i quadri antichi, la libreria, il grammofono. È sempre chiuso a chiave. A sinistra il salotto, Sì, con il pianoforte grande a coda. Poi c'era la sala da pranzo con la frattina, poi giravi a destra, c'era il corridoio lungo, c'era la cucina, l'anticucina. L'office. Vabbè, le fontane per lavare i panni, il bagno grande, il bagno piccolo, il bagno a mattonelle verdi e bianche. Siamo dei virtuosi dell'igiene. Sì. Poi c'era la camera di Pasquarosa, lo studio di Pasquarosa, lo studio di Nino e un secondo studio di Nino. Lo spazio non basta mai. Tutti, prima o poi, capitavano in via Condotti. Si parlava. C'era chi diceva... Dammi una mano a sistemare un quadro. Poi arrivarono le biennali, le quadriennali, le sindacali. E lì c'era posto un po' per tutti. E tutto. Il fascismo è come un tubo vuoto che ci puoi mettere dentro quello che vuoi. Lo diceva Pirandello. Però a una quadriennale arriva il Duce, con tutta la gente intorno. Ti presentano un'opera apologetica commemorativa di non so che cosa. Fate conto, La volante fascista di Arturo Martini. Solo che non era Arturo Martini l'autore dell'opera. No. Comunque tutti si aspettano la sua approvazione. Il Duce esplode. Pum! Mettete via quella robaccia! Duce. Vedi? Non era completamente stupido. No, è che era istruito dalla Margherita Sarfatti finché è durata la relazione. Poi sono arrivate le leggi razziali e... Sì, poi diciamoci la verità. Intorno aveva anche quello che aveva, Pare che quando abbiano proposto De Vecchi al Ministero dell'Educazione Nazionale, Benito Mussolini abbia dichiarato: ben conoscevo la ferrata ignoranza del quadrunviro De Vecchi! Duce. Sì, vabbè. E Staracci, che si era dimenticato la H di Achille per compensare la infilata nel cognome? Achille Staracche. Firmo meglio io. Senza dubbio. L'arte italiana è piccola. È una piccola Italia questa. Meglio viaggiare. Carissimi! I Bertoletti faranno Natale qui con noi a Parigi. Domani usciamo con Pasquarosa, andiamo a comprare l'albero con le guarnizioni, lo portiamo a casa di Pirandello, facciamo una grande festa. Ah, ora esco e mi scavento a Montmartre a fare acquisti. Ah, Bertoletti ha cominciato a farmi il ritratto. Ieri sera ho incontrato De Chirico. Baci, vostra Paola Masino. Parigi a Natale. Nino si divertiva a filmarci con una piccola cinepresa portatile. Una Pathé Baby? No, dai. Parigi. Pensieri di grigio lattiginoso e poi di grigio splendente. Non era colpa mia. E nemmeno nostra. Il bambino non mangiava perché aveva qualcosa che gli ostruiva la gola. Finalmente l'hanno operato. A Parigi. L'ignoranza non ha mai protetto nessuno. No. Non so come posso essere stata così ignorante da pensarlo. Ma tu non sei ignorante. Ma sì, ignorante, stupida contadina che mangia pomodori crudi. Sono rimasto impressionato da un film, L'Inferno. Il regista si era ispirato alle illustrazioni di Gustave Doré. Era dell'epoca del muto. Si discuteva molto in quel periodo, anche fra di noi, della capacità del cinema di divulgare l'arte. Sono tornato a vederlo più di una volta, una di queste volte sono con Tofano. La proiezione è già iniziata. Lui si rivolge ad uno spettatore e gli sussurra: scusi, è già arrivata la lonza. Quello si gira, lo guarda e gli fa: ma che sor pizzicarolo io? Ecco, hai capito? Questa è l'ignoranza. Grazie. E per quanto riguarda la chiesa, sono stata a San Carlo al Corso a confessarmi. Ma se voti socialista? È consentito. Voi Bertoletti siete tutti dei donnaioli. No, adesso, se ti sembra il caso. No, mai. Quella donna, Giorgio, non la deve sposare mai. Perché? Perché... È molto bella. Beh, certo. Vuoi fare l'attrice. Tu eri modella. Lo sono anche adesso. Sì, la mia modella. Anche di altri. Ah sì? Vorrei ricordarti il ritratto che ti ha fatto Cimara. Vabbè, cosa c'entra quel ritratto adesso? Sembra quello di Pierpaolo Pierpaoli. E chi sarebbe? Il benemerito fondatore del collegio di Gian Burrasca. Vabbè, comunque di quel quadro si sono perse le tracce. Fortunatamente. Possiamo non cambiare discorso? No, no, no, stavamo parlando della fidanzata di Giorgio. Ecco, ecco, ecco. Non è di queste parti. Neanche tu. È di Anticoli Corrado. Anche tu. Appunto. Ma appunto cosa? Non sai quanto si soffre ad essere una ragazza di campagna e trovarsi in un ambiente che non è il tuo. Non voglio che lei soffra quanto ho sofferto io. Pensavo che tu fossi felice. Certo che lo sono. Vabbè, comunque sono d'accordo con te. Giorgio avrebbe potuto sposare una del nostro mondo, la figlia, ecco, di un critico d'arte, ecco, di un intellettuale, e invece sposa una figlia di contadini che si è messa in testa di fare l'attrice. Ecco, io vado a chiudermi nella mia stanza, emicrania, mal di testa, al buio. È inutile. Perché? Perché la sposa lo stesso, per procura. Per procura? Giorgio è in Sardegna, capitano medico dell'aeronautica. Nell'aeronautica, come suo padre. Almeno lui non parte volontario. No, ma entra nella resistenza. Giustizia e libertà, con una moglie incinta. Vabbè, ma possiamo prenderci cura noi di lei e di... È un maschio. Paolo. Paolo. Piange. E per forza piange, non ha il latte. Quello della madre? Ma non va bene, ci vuole il latte in polvere. Dove lo trovo io, il latte in polvere, in tempo di guerra? Al mercato nero. Faccio venire la farina da Anticoli Corrado, 4 chili per una scatola di latte in polvere. Lo cerco dappertutto, vado da Sandro Penna, vado a Capogrossi. Loro mi aiutano come possono, carne equina e latte in polvere. E il caffè? 20 chicchi clandestini. Macinati con cura. E gustati, e assaporati. Da me, da Rosetta Tofano, l'amica più cara. Sì, in una stanza remota della casa. Avevamo bisogno della nostra intimità. Ah, poi c'è stata la storia del prosciutto. Ho trafficato molto per procurarvelo. Sì, ma dovevamo anche mangiarlo. Poteva servire per qualche scambio. E infatti è marcito in cucina? Nell'office. Nel mio studio invece c'era un viavai di clandestini, ebrei, partigiani, e sempre più spesso di mio figlio Giorgio. Nascosto dietro l'armadio delle cornici, tra l'intercapedine e il muro. E tuo fratello Cesare, che intanto pedala in bicicletta. Bersagliere fascista! Che aveva ragione tua madre. Le proprie un cheat. Roma, 5 settembre 1944. Cara Pasquarosa, ti mando la cassetta coi colori. Spero che ci sia tutto. Adopera prima i colori piccoli. Attenta al verde smeraldo. Non ce n'è più un grammo in tutta Roma. Stamane ho trovato 2 o 3 tubetti di coloraccio da Olivieri, che per favore mi ha fatto pagare 100 lire l'uno. Un tubo di bianca come quello che ti mando costa 200 lire e non si trova. Ora vedrò di farmi rimandare da New York. Ad Anticoli come state? Qui è un disastro. Vai piano con l'olio di papavero, non ce n'è più. Non ho tavolette preparate. Qui si dice che la guerra finisca presto. Ti bacio. Tuo Nino. I colori cambiano. Cambiano gli oli, cambiano le marche. Ma di queste terre di Siena bruciata, ma quante ce ne sono? Io che ero tutta colore e poco di segno, mi sento spezzata. Sono rimasto impressionato da una cosa riguardo il periodo di guerra. Noi avevamo dei legami molto stretti, soprattutto con 2 famiglie, i Trombadori e i Pavolini. Ecco, in quel periodo i rapporti con i Trombadori erano problematici per via del figlio Antonello, che era stato a capo dei gruppi armati partigiani, i GAP, che poi con la storia di Via Rasella. Mentre quelli con i pavolini erano problematici a causa del fratello di Corrado, Alessandro, detto il Buzzino. Alessandro Pavolini, finito tragicamente nelle nebbie di Salò. Questo pranzo resterà nella storia. Parli del corned beef? No, parlo del pranzo bulgaro di Asen Peikov. La sua baronessa. Sì, la baronessa, brava. Vabbè, baronessa, contessa, insomma, quello che è. La sua baronessa o contessa di San Martino è più grossa della statua di Leonardo che lui sta facendo per il nuovo aeroporto. Ma i suoi fagottini al formaggio sono deliziosi. A Roma andiamo da Otello, al re degli amici. In via della Croce... Da Cesaretto. Agnolotti al sugo. Cottuso disegna battagliette di soldatini sulle tovaglie di carta per Paolo. A Venezia andiamo da Montin. Si mangia male. No, si mangia bene. No, si mangia male. No, si mangia bene. Si mangia male, ci vai perché ci vanno i pittori. Ma non è vero, ci vado perché si mangia bene. La coda di rospo, per esempio. È insipida. E l'agnello alla menta che abbiamo mangiato a Bad Gönstein? Indigesto. Ecco, vedi, a te non va mai bene niente. E a te interessano soltanto le atmosfere. Hai il diabete. E tu i calcoli biliari. Ah. Domani si pranza alle 11. Alle 11? E si cena alle 5. E perché? Per una questione di luce, come faceva Corot. Mando Paolo a comprare ostriche e mazzancolle. Lo vedi che mangi troppo? Ma sono per le mie nature morte. Dovresti venderle. E tu dovresti esporre? Io espongo sempre. Perché tu no? Perché io espongo attraverso di te. E da quando è così? Da sempre. Caro! Caro, caro Bertoletti, io prenderei questi 3 dipinti a olio. Nino spara una cifra assolutamente fuori mercato. 600.000 lire. E siamo nel 59. Una cifra molto importante, caro Bertoletti. Ma insomma, essendo un regalo di nozze per mia figlia, è vero? Io tengo il fiato sospeso. Ah, e dove va ad abitare la coppia? Quello dice a Prati. Ah, in periferia. E come è esposta la casa? Quello dice a nord. Ah, luce fredda. E i mobili come sono? Quello dice nuovi, nuovi, tutti nuovi, moderni. Ah, di plastica. Mi scusi, ma ne parliamo un'altra volta. Dio, ma che hai fatto? Che hai fatto? Ma cosa credi? Ma cosa credi? Che sono un pizzicarolo io. I quadri sono come figli. Ti ho preparato delle tele. Grazie. E la cornice che non va. La cornice non va bene per la tua natura morta napoletana. Dio, ma dobbiamo fare la spedizione. E va bene, aspetteranno. Ma è il premio Marzotto. Alla radio lo dicono. Ad Anticoli lo sentono. Sentono l'intervista, sentono che ho vinto io. Pasqua Rosè, bravo! Pasqua Rosè, complimenti, davvero! Pasqua Rosè, ti ha portato la vetta, fresca, fresca! Pasqua Rosè, ma com'è che diceva la radio, eh? Che è una roba da uomini! È una cosa che finora hanno vinto solo gli uomini. Donna Olga sarebbe orgogliosa di me. Apro il mio ombrellino bianco per ripararmi dal sole e dalle chiacchiere e lentamente salgo alle querce dove abita il figlio del farmacista che come naturale è diventato pittore. Una casa e un giardino molto belli. Lo spazio non basta mai. Beh, ma non vorrei mica andare in via Condotti? No, per carità, in quei posti bui. Ah. E via Frattina? In mezzo ai commercianti? Prati e periferia. Alla fine traslochiamo in via 4 novembre. Uno studio immenso. 500 metri quadri di vetrate e di luce, con un terrazzo da dove vedi tutta Roma. Poi se lo prende Guttuso. Dopo. Quando non ci siamo più. Tanto lo so che lì ci portavi le modelle. Sì, ma da quando è anche casa non più? Voi Bertoletti siete tutti dei donnaioli. No, ti prego, è tutto un equivoco. Vado a chiudermi nella mia stanza, mal di testa, emicrania, al buio. No, aspetta. E se andassimo da Cesaretto a fare una bella pappata? Agnolotti? Al sugo. Mangi troppo, caro. Mangi troppo. Via del Corso era sempre animata la sera. Si scambiavano saluti, opinioni. Sono rimasto impressionato da un dialogo con De Chirico. Ci incontriamo in via Condotti. Ora, non so perché, ma io e De Chirico ci siamo sempre dati del lei. Come sta? Faccio io. Bene, grazie. Sa che cosa c'è in questo pacco? De Chirico portava un grosso involto sotto il braccio sinistro. No. Una nuova tavoletta per il cesso. Bene, arrivederci. Surreale. Metafisico. Oddio, oddio. Ho appena visto Laura Morante con un cappellino. Ma Dio, orribile. Ma come fa? Lei che è così intelligente. E Moravia? Lo sai come lo chiamano tutti? Bitter Campari. Non è divertentissimo? Pasquarosa è sempre la solita gaffeuse. Ah no, è vero. Amaro Gambarotta. Ecco perché non rideva nessuno. L'altro giorno, andando a trovare un'amica via Mario dei Fiori, sbaglia numero civico e entra in un bordello. Ah, vabbè, ma poi me ne sono accorta subito. Sì, quasi subito. Divertentissimo anche quello. È fatta così. Pasquarosa è fatta così. È fatto così, Nino. È fatto così. Aristocratico. E come tutti gli aristocratici o i contadini, fuma solo sigari toscani. Fatti a mano, di foglia intera, croccanti come neve asciutta stretta nel pugno. Opachi, zigrinati, biondi e stagionati per anni. Ne spezzo uno con l'unghia. E come si conviene l'amicizia, una metà per me e l'altra per Carlo Levi. Levi lo accende e tira una profonda boccata. Moravia, che nella stanza, si mette subito a gridare. Che puzzo! Non posso resistere! Questo terribile cattivo odore mi fa male! Lui subito spegne. E intanto io accendo la mia metà. Vedi, Carlo? Dice Moravia. Il tuo sigaro era tremendo. Io non so perché ti ostini coi toscani. Il sigaro di Nino, invece, lo senti? È profumato. È un'altra cosa. Lui è elegante. Che cos'è? Una vana. Fumi troppo, caro. Fumi troppo. La morte non è qualcosa di speciale. È come salire su per una salita. E io salgo. Salgo tra i castagni, le felci e le viole selvatiche. Pronto? Oh, sei tu, Paolo. Come stai? Sì, il tempo è bello qui. Facciamo delle belle passeggiate al mare. Il mare, sai, pensavo, mi ricorda il verde della valle, quella massa scura che si muove e come quando sulle colline soffia il vento. Dai un bacio alla bambina e salutami gli amici, salutameli tutti. Ah, salutami Nino e Piero Scapicchio, digli che me li ricordo sempre.